Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Ci sono libri di cui è difficile parlare troppo perché, come dire, si toglierebbe un po' il gusto della lettura, anche perché questo romanzo, secondo me, è costruito come a cerchi concentrici, quasi come una matriosca. Ogni volta che si va avanti con le pagine si scopre qualcosa in più, non tanto della trama, ma della psicologia dei personaggi e di che cosa c'è dietro questi personaggi. Il romanzo si intitola Una storia nera, l'ha scritto Antonella Lattanzi, pubblicato da Mondadori. È un romanzo che parla anche, fra le altre cose, di violenza sulle donne, perché di violenza familiare sulle donne, perché la protagonista è una donna, Carla, che ormai è divorziata, insomma è separata dal marito Vito da circa 2 anni. Lui la picchiava proprio selvaggiamente, non aveva mai alzato le mani nei confronti dei 2, poi sono diventati 3 i figli, però insomma con lei era molto violento. E anche una volta che, diciamo, si sono separati, continua a seguirla, a fare quello che oggi chiamiamo, diciamo, stalking. Antonella, come mai hai deciso di affrontare una storia narrativa, però prendendola da, immagino, spunto da diversi episodi di cronaca di cui comunque si parla tanto? Perché volevo cercare di raccontare la questione della violenza sulle donne, la questione del femminicidio, da un punto di vista diverso, fuori dai cliché. Volevo raccontare la storia di questa donna e per farlo mi sono documentata, come sempre mi piace fare quando scrivo sia sceneggiature sia romanzi, su tanti casi di cronaca di tutti i colori, però poi la storia è inventata, perché mi piace molto inventare le storie. Secondo me l'invenzione romanzesca poi contiene il tutto, molto di più della realtà. Ecco, in questo romanzo appunto vediamo all'inizio Carla e Vito, li vediamo che sono già separati, però si ricostruisce anche a volte una parte del loro passato. A proposito della violenza di Vito, tu scrivi a un certo punto: ad aprile Vito era diventato una furia. Manuel, che diciamo il nuovo compagno di Carla, era convinto che da un momento all'altro, oltre che sfogarsi sull'ex moglie, avrebbe fatto del male anche a lui. Vito si faceva trovare dappertutto, come faceva a sapere sempre dove era Carla e cosa avrebbe fatto, anche quando non lo sapeva lei. Se la sorprendeva sola per strada, erano prima urla e poi minacce e spesso botte, o almeno agguati. Manuel si sentiva pronto ad affrontarlo, era lì per lei. E poi parli anche dei momenti di rimorso di Vito. Dice che Vito andava a cercare appunto Carla, l'ex moglie, perché voleva darle dei soldi. Dice: ci sono anche i bambini di mezzo, fammeli aiutare. Insomma, qual è l'atteggiamento di Vito nei confronti di Carla? Tu hai studiato appunto tutti i meccanismi, chiaramente, degli uomini che vogliono avere ancora un controllo proprio fisico sulle loro compagne o ex compagne. Perché è così aggressivo ancora? Vuole così avere il controllo sulla vita dell'ex moglie? Perché secondo me, più che sull'amore, Vito si concentra sull'insicurezza dell'amore. Infatti non picchia i figli, infatti all'esterno è considerato un uomo benestante, un bravo uomo. Ci sono 2 Vito: il Vito dentro casa, che picchia la moglie perché ha paura di perderla, che non picchia i figli perché non ha paura di perderli. Secondo me è questa la leva che fa scattare una violenza del genere a tutti i livelli poi della società, non soltanto in quelli più umili. Infatti si vede anche lo sfondo, diciamo, sociale di questa vicenda. C'è la famiglia d'origine di Vito, entrambi sono originari di Massafra in Puglia, e comunque le sorelle di Vito, eccetera, proteggono e difendono sempre comunque il fratello. Anche se usa violenza nei confronti della moglie, ora ex moglie, comunque prendono le sue parti. Perché è così difficile solidarizzare con una vittima? Beh, perché comunque Vito viene da una famiglia in cui l'uomo è sacro, e all'uomo si può permettere tutto, e quindi si vede soltanto l'aspetto positivo dell'uomo. Nonostante la famiglia d'origine sappia tutto quello che fa Vito, pure lo nega, perché ha bisogno di considerarlo un santo, il suo eroe. È molto bella l'analisi del personaggio di Carla, no? Della psicologia di Carla, perché Carla è una vittima, eppure in diverse parti del romanzo esprime amore nei confronti di Vito. Cioè, in realtà non lo odia, lo teme, ma non lo odia. Ti sei chiesta, appunto, da scrittrice che poi ha voluto narrare una storia del genere, com'è possibile continuare ad amare non dico solo a restarci insieme per i figli, eccetera, tante altre scuse, tanti alibi, ma proprio ad amare un uomo che ti usa violenza. Io penso che l'abbiamo provato un po' tutti, una sensazione strana verso una relazione che non ci faceva stare proprio al meglio, ma contemporaneamente non riuscivamo a staccarci da questa persona. Non deve essere per forza una violenza fisica, può essere anche una violenza mentale. Questa sensazione per cui quando Vito è il mostro, ma subito dopo diventa un angelo. E quindi tu pensi rimarrà un angelo per sempre. Io credo che questa sia la trappola dentro cui la donna poi può scivolare facilmente. A un certo punto, non diciamo però, ecco, non lo contestualizzo all'interno della trama del romanzo per non svelare troppo, però diciamo in un momento in cui Vito usa violenza nei confronti di Carla, Carla ripete mentalmente alcune regole, no? Per diciamo fare in modo che non accada il peggio. Allora a un certo punto tu dici: fingere che fosse tutto nella normalità era la prima regola. La seconda, parla, distrailo. La terza, non lo toccare. La quarta, se le prime tre non funzionano, scappa. Naturalmente se sei in condizione di scappare. Poi, quinta regola, mai negare l'evidenza, mai negare. Ecco, queste regole tu le hai, diciamo, scritte parlando con persone che hanno subito violenza? Cioè, come hai fatto a immedesimarti nella mente di una donna che ha subito violenza? No, le ho pensate. Ho pensato che cosa avrei fatto io se mi fossi trovata in una situazione del genere. Ho pensato quali sarebbero state le regole che mi sarei data io in una situazione così. Perché quando scrivo comunque cerco sempre di entrare dentro la testa dei personaggi, dentro il cuore dei personaggi, dentro la personalità dei personaggi. E quindi mi sono venute in mente queste parole perché penso che sono quelle che avrei detto a me stessa se mi fossi trovata in una situazione del genere. Ecco, abbiamo detto all'inizio che non possiamo raccontare troppo della trama, perché a un certo punto si crea proprio anche un giallo. Possiamo sicuramente dire che a un certo punto del romanzo, quasi all'inizio, noi lettori ci aspettiamo che possa accadere qualcosa a Carla, cioè perché la vediamo in uno stato di minaccia, diciamo adesso succederà qualcosa, Vito farà qualcosa. In realtà è Vito quello che scompare. A un certo punto scompare, non si sa nulla di lui. Possiamo anche dire che a un certo punto verrà ritrovato morto e poi da qui si cercherà di capire chi è stato, e non vi diciamo tanto, perché non è tanto un giallo, ma è l'analisi psicologica dei personaggi che conta, secondo me, in questo romanzo. E qui c'è l'atteggiamento diverso dei due figli, Nicola e Rosa. Mara è piccolina, praticamente compie 3 anni, quindi insomma non è in grado di avere un ruolo attivo in questa situazione. Rosa mette ancora il padre su un piedistallo, sì, Nonostante abbia visto le violenze che ha subito la madre. Nicola invece ha un atteggiamento molto protettivo. Ecco, questi due fratelli che fin da bambini hanno visto queste violenze nei confronti della mamma, com'è che poi reagiscono in modo così diverso? Hanno tutte e due l'imprinting della violenza e da quando il padre scomparirà un po' ricalcheranno i passi del padre, questa sensazione che ci deve essere per forza un capofamiglia. Quindi Nicola sente di dover diventare un po' suo padre, di dover diventare il capofamiglia e prendere su di sé tutte le decisioni della famiglia. Io penso che i figli che vivono situazioni del genere siano danneggiati ed è difficile quando una persona è così danneggiata che poi riesca a guarire. Quindi, infatti lo dice a un certo punto del romanzo, no? Se i danneggiati possono essere riparati, diciamo, sì, così. Non lo so, questa è una domanda a cui non so dare risposta e su cui i figli si interrogano moltissimo sperando di poter essere diversi dai propri genitori. In questo romanzo ci sono anche altri personaggi, c'è per esempio Milena, che è l'amante di Vito, ormai l'amante storica di Vito, che a sua volta ha una figlia. C'è una frase che mi ha colpito di Milena. A un certo punto Milena riflette sul fatto che, dice, Vito picchia ancora la sua ex moglie, picchia ancora Carla perché la ama, non picchia me perché non mi ama abbastanza, che è un discorso abbastanza assurdo se ci pensiamo. Perché ci sono degli uomini che ti dicono che ti picchiano solo perché ti amano, che non hanno mai picchiato nessuno nella loro vita e che picchiano te perché sei la persona che amano sopra ogni cosa. E quindi io penso che Milena abbia sentito questo come una mancanza nei confronti di Vito, essendo la sua amante da 16 anni, sta aspettando il suo turno da così tanto tempo e sente ancora che però l'amore di Vito è concentrato più su sua moglie che su di lei. Perché è ancora ossessionato, diciamo, dalla moglie, vuole Sì. ancora avere il controllo sulla moglie, la minaccia e così via. Un'ultima domanda: a un certo punto, beh, ci sarà naturalmente un processo perché Vito muore, chiaramente è stato ucciso, quindi ci sono dei dialoghi anche molto serrati, molto belli dal punto di vista narrativo. C'è un'immagine che ritorna spesso quando, nel momento in cui, diciamo, viene scoperto il cadavere di Vito e in altri momenti. L'immagine di questi gabbiani che io particolarmente ho il terrore degli uccelli, quindi devo aver visto Hitchcock da piccola e quindi mi è rimasta quell'ansia. Ti giuro, leggendo quelle pagine mi è venuta un'ansia pazzesca perché vedevo questi gabbiani, sentivo proprio questo verso dei gabbiani e poi c'è una scena in cui fanno un interrogatorio, diciamo, nel commissariato e ci sono questi gabbiani che quasi si stanno schiantando contro le vetrate. E sono sempre presenti un po' in queste scene, come Sì. se fossero veramente degli uccelli del malaugurio. Come mai questi gabbiani hanno preso la scena? Anch'io odio i gabbiani, vivendo al centro di Roma, che è pienissimo di gabbiani, quindi sono degli uccelli cattivi, voraci, sporchi, e quindi mi davano l'idea di tutto il nero che ci poteva essere dentro la città di Roma. E quindi sono un po' il simbolo di tutto quello che di oscuro c'è dentro Roma e incombe su questi personaggi. Infatti lo diciamo alla fine, il romanzo è ambientato a Roma, anche se abbiamo detto i personaggi sono originari della Puglia, di Massafra. Questo è un romanzo intenso, bello, è un romanzo che veramente va letto un po', secondo me, anche tutto d'un fiato perché si capiscono meglio alcuni snodi. Grazie allora ad Antonella Lattanzi. Grazie a te. Il romanzo si intitola Una storia nera ed è pubblicato da Mondadori. Facciamo una breve pausa e poi parleremo ancora di libri. Il cacciatore di libri. Se dovessi dare una definizione di questo romanzo, lo chiamerei forse un romanzo d'altri tempi, non solo perché racconta una storia certo ambientata nel passato, ma forse anche per i temi, per il modo in cui è raccontato. Mi ha ricordato appunto quasi un romanzo vintage, ecco, se possiamo definire così. Si intitola Il cortile di pietra, l'ha scritto Francesco Formaggi, pubblicato da Neri Pozza. Perché ho detto un romanzo d'altri tempi? Perché il protagonista è un bambino, Pietro, che viene costretto, insomma, dai genitori, viene chiuso in collegio e qui, come del resto in famiglia, subisce una serie di violenze fisiche e psicologiche. Come mai uno scrittore, ecco, giovane come te, Francesco, ha deciso di riprendere un tema che è stato caro a molta letteratura, diciamo, del passato? Mi interessava principalmente, anche se non è un pensiero cosciente, di creare una distanza sia temporale che fisica nel romanzo, quindi di portare il lettore in un posto che fosse altro, che fosse oltre qualcosa e che in questo oltre raccontasse l'infanzia, raccontasse l'esperienza di un bambino. Quindi volevo portare il lettore dentro l'esperienza e la mente di un bambino in un altro modo, in un altro posto, in un altro universo. Parallelo si può dire, non lo so, perché appunto creasse una distanza rispetto al nostro mondo contemporaneo, distanza anche dalle banalità, cioè i trasporti, le comunicazioni, quindi un luogo che fosse più umano, dove un po' la realtà umana emergesse con più forza, quella degli affetti, dell'amicizia, eccetera, eccetera. Emerge sicuramente quel tipo di umanità e mi emerge anche un'umanità, diciamo, cattiva, nel senso che appunto c'è molta violenza nei confronti dei bambini, non solo nei confronti di Pietro, ma di tutti i bambini che frequentano, diciamo, questo collegio, che sono chiusi in questo collegio. In alcune parti, soprattutto all'inizio, mi ha ricordato quasi delle atmosfere dickensiane, nel senso che Pietro viene praticamente strappato ai suoi genitori e portato di forza, di peso in questo posto, insomma, ci sono anche posti che gli fanno paura, persone che gli fanno paura. In questo senso, non so, hai ricostruito i fantasmi della tua infanzia o quelli che pensi possano essere i fantasmi dell'infanzia di tutti? Nel mio caso i miei, ricostruiti, rismontati, ricostruiti ancora e poi messi da parte, perché poi ci ho messo un bel po' di tempo a scrivere questo libro, 3 anni più o meno, e alla fine di questi 3 anni di scrittura intensa io ero una persona diversa, proprio perché ho ripercorso un po' il mio essere bambino, le mie esperienze che non sono state naturalmente le stesse di Pietro, però diciamo il contenuto emotivo sì, quello poi c'è stato. E quindi appunto ricreare, ricostruire, ricercare un po' il bambino che ero stato mi ha portato a scrivere questa esperienza qui, di Kenziana. Poi l'infanzia, diciamo, è sempre un po' la stessa, no? In tutte le epoche, anche se la realtà cambia. Forse l'interiorità di un bambino non cambia, non è cambiata nel tempo, è cambiato il modo in cui i bambini vengono trattati, per fortuna, anche se forse solo in apparenza. Perché poi tutte le violenze nel collegio, soprattutto quelle fisiche, oggi non ci sono più per fortuna, ma le violenze psicologiche, purtroppo, quelle invisibili, ancora ci sono. E ci sono la testimonianza, perché molti lettori, soprattutto lettrici, mi scrivono in privato, mi dicono: sai che io, è incredibile questa cosa, sai che io da bambina sono stato in collegio, mi hai fatto tornare in mente quando mi legavano la mano sinistra dietro perché ero mancina, dovevo scrivere con la destra. Tantissime. È strano per me sentire queste cose, perché è come se avessi suscitato, tirato fuori da queste persone un'esperienza loro. Leggendo questo libro, in alcune pagine si sembra quasi non avere il respiro, insomma, sembra quasi che non ci sia una via di fuga. Poi per fortuna si creano delle piccole oasi di umanità nel momento in cui Pietro conosce un altro bambino in collegio, Mario, con cui c'è un rapporto bellissimo, o anche il rapporto con una suora, Tabata. Ecco, queste piccole oasi le hai volute creare così, appunto, per dare un respiro anche al lettore, o perché poi, insomma, la vita è fatta di cose belle e di cose brutte? Sì, perché la vita è fatta di ombre e di luce, senza l'una non c'è l'altra. L'immagine era quella, mentre scrivevo, di attraversare un tunnel che poi arriva alla luce, no? Naturalmente. La luce era appunto queste osi d'affetto, ma più che altro mi è venuto spontaneamente seguendo l'evoluzione di Pietro. Seguendo l'evoluzione di Pietro, che a un certo punto resiste, ha una ribellione, una resistenza interiore a quella realtà lì, lui necessariamente è spinto verso la ricerca di umanità. E quella, tu veramente, ma accade in tutti, soprattutto i bambini, quando tu ti rendi conto che non vuoi più una realtà violenta e dentro di te sai resistere e non ti fai annullare, ti vai a cercare il buono. E quindi lui il buono lo trova in questo amico, e poi grazie a questo amico riescono a scappare, e poi per caso lui riesce a... Non dico in che modo, ma... E quindi quando hai un'esigenza interiore di liberazione, capita a tutti che riesci a trovare il modo di farlo. E soprattutto riesci a trovare persone che corrispondono alla tua necessità d'affetto. Questo è. Uno dei personaggi molto bello di questo romanzo è appunto Mario, questo bambino che, nonostante sia in collegio da tanto tempo, reagisce anche con allegria, con ironia, che sembra strano in un bambino, alle violenze che subisce. Ci sono delle scene anche molto forti in cui le suore lo frustano, quindi insomma delle violenze fisiche notevoli, eppure Mario se ne esce sempre fuori con un sorriso. Perché lui dice: va bene, insomma, voi mi picchiate, ma io tanto scappo da qua prima o poi. C'ha questa certezza che riuscirà a scappare, che nel libro ha a che fare con il movimento fisico. Però lui è talmente vivo, fantasioso, è talmente intatto che riesce a scappare, sa che riuscirà a liberarsi internamente da questa cosa. Dice: prima o poi mi salvo da questa situazione qua, perché voglio vedere la neve, perché voglio fare, eccetera, eccetera. E anche lui, grazie a Pietro, poi riesce lui da solo non ci riesce, non c'è mai riuscito, ci ha provato mille volte, l'hanno sempre ripreso, poi si fa anche strane fantasie di spazio, cerca di saltare il muro, ma giustamente non ce la fa. E quindi il suo mondo è un mondo in cui lui si salva e lo crea, anche se poi spesso non è reale, se lo crea in mente poi lo trova. Nella storia della letteratura, ma anche del cinema, appunto la vita nel collegio dei bambini, le violenze, è un tema, come dicevo prima, già rappresentato. Tu ti sei rifatto a quell'iconografia o hai voluto seguire una tua strada, una tua ricerca personale per capire veramente cosa succedeva, oppure hai agito solo ed esclusivamente di fantasia? Io ti posso dire che Dickens l'ho cominciato a leggerlo dopo, cioè per vedere, ma per caso sto facendo qualcosa che non c'è proprio uguale. In realtà sì, poi le esperienze sono le stesse, Jane Eyre, insomma quelle storie lì. Però poi mi ricordo la prima grossa difficoltà che ho avuto scrivendo il libro è stata quella di ricostruire il collegio. Com'era la vita quotidiana lì dentro? Lì appunto la letteratura è piena di quelle cose, però io per fortuna ho intercettato almeno due persone, una in particolare, una signora si chiama Clotilde, che era una mia allieva di un corso di scrittura, pensa, con l'INPS. Lei è una donna stavo sulla sedia a rotelle, c'è avuto un incidente e abbiamo fatto un corso di scrittura creativa un po' d'anni fa, 2 o 3 anni fa se non sbaglio, con l'INPS, e lei mi ha raccontato la sua storia di quando stava in collegio. Io tutti i pomeriggi dopo la lezione la interrogavo, allora dalle 8 alle 9 di mattina che si faceva al collegio alle suore? Lei mi raccontava quindi tutte le, la storia di loro che si nascondono dietro la stufa per riscaldarsi, la storia del calderone che cade e le brucia, che altro, la dispensa piena di prosciutti, quelle sono tutte cose che mi ha raccontato lei. E quindi ho riempito, ho creato, costruito questo, questo collegio con la fantasia, ma in base a racconti suoi. Che poi insomma il ritratto che fai delle suore di questo collegio è terribile, cioè non solo usano violenza fisica e psicologica nei confronti dei bambini, ma appunto hanno la dispensa piena di cose da mangiare e loro si trattano benissimo. Ecco, in questo senso anche ti sei basato su, diciamo, racconti reali? Questa, soprattutto la figura, le figure delle suore, è un'esperienza mia personale. Perché da bambino io sono andato in un collegio di suore per poco, però ti assicuro me lo ricordo come se fosse accaduto ieri, perché era un postaccio. E mi ricordo soprattutto questa distinzione netta tra le buone e le cattive, erano due. Sembra un romanzo, però nella realtà c'era Ernestina, era brutta e cattiva, veramente. E l'altra si chiamava Sor Benedetta, che era quella brava. E io mi ricordo che loro da ragazzini ci cucinavano queste minestrone dentro sti calderoni, ti parlano degli anni 80, 83, 84, quindi neanche troppo lontano, e cucinavano queste minestre dentro sti calderoni, sembravano streghe, giravano piene di cipolla, una schifezza incredibile, e loro, mentre noi ragazzini mangiavamo la brodaglia, se ne andavano di là in cucina a mangiarsi le cose, e si sentiva l'odore, mi ricordo questa cosa. Quindi insomma, poi sì, sono fatti che nei romanzi sono facili, chiaro, i bambini vengono affamati, loro mangiano bene, però io questa cosa l'ho vissuta. Un'ultima domanda, si capisce che è ambientato nel passato questo romanzo da una serie di particolari, ma non si dice mai precisamente un riferimento storico, possiamo capire che potrebbe essere il primo, il secondo dopoguerra, insomma, perché questo aspetto un po' vago? Nel quando, nel dove, questa è una cosa che mi viene spontanea, oramai mi rendo conto che anche nel Casale, nel primo romanzo, ho fatto questa cosa qui, perché mi viene spontaneo di rilasciare il dove, il quando sospeso. Perché? Intanto perché non mi piace tanto il realismo fino a se stesso. Intanto perché credo che quando il realismo è fino a se stesso, quindi quando c'è necessità di mettere una data e un luogo, praticamente è quello, 1962 Roma, per dire, tanto basterebbe quello, è come se si perdesse un po' di una sorta di atmosfera di fiaba, non so, un qualcosa di sospeso che può succedere in tutti i luoghi, in tutti i tempi, dove il centro non è la realtà dei fatti che accadono, ma è la realtà umana dei personaggi e delle persone. E questo è sospeso, perché questo appartiene a tutti, e io credo che farò sempre così. C'è anche un'esigenza di creare una letteratura, tra virgolette, espressionista, per cui conta tanto non la realtà fuori, ma il modo in cui i personaggi la sentono e la trasformano. Grazie a Francesco Formaggi, ora in libreria con Il cortile di pietra, pubblicato da Neri Pozza. Anche per oggi è tutto, grazie in regia a Filippo Aureggi. Vi ricordo che trovate tutte le puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it. Se volete sempre essere aggiornati su quello che stiamo realizzando per voi per queste puntate, potete seguirmi anche su Twitter. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.